fratello. Natural, officina emotiva, solo musica. E questo è il mio kimono. Si sente? Sì, dai, dai, dai. Vabbè, questa roba. Titolo? The Final Countdown. Artista? Il folklorista. www.gigidag.com e fai la votazione. www.gigidagostino.com. Per votare basta cliccare. Ti si apre la paginetta e scegli la canzonetta. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Chi vota poco resterà a PC. Il sondaggino di Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Stai ascoltando Pizza Pizza. Artista? Lento Violento Man. Thank you. state attenti. È un evento, già lo sento. Venerdì 17 marzo 2006, ore 22:30 circa. Discoteca Ultimo Impero. Discoteca Ultimo Impero. Via Autostrada 1, Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Magliano Alpi, in provincia di Cuneo. Musica e ritmi di Gigi D'Agostino, che sono io. Luca Nois, che è lui. E Daniele Mondello, che è l'altro. Ci vediamo lì. Di venerdì. Di venerdì. Ci vediamo lì. Avrei un piccolo dettaglio sulla serata di questa sera all'Ultimo Impero in provincia di Cuneo. Per qualsiasi informazione potete digitare il seguente numero: 339 44 34 287, e l'info line per l'evento. Quindi per qualsiasi informazione potete digitare questo numero e fare le vostre domande. È chiaro, no? No, perché qualcuno mi ha scritto che non riesce a capire quando parla. Neanche io riesco a capire quando parlo. A Cagliari, a Milano e provincia, M2O. In tutta Italia, 800-274-345, per sapere su quali frequenze ascoltare la musica allo stato puro di M2O. Ciao, vi ci metto. Il CD di M2O è nei negozi di dischi e in tutte le edicole. Con il nuovo numero di Pianeta M2O. La rivista che si apre e diventa un poster. Testi delle canzoni, video e archivio sigle M2O. The dance movement number one. M2O, musica allo stato puro. M2O, musica allo stato puro. CD più rivista, nei negozi di dischi e nelle edicole a 9,90 euro. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci, piaci. Marco, tu mi piaci perché amiamo le stesse cose. Marco, siamo amici perché abbiamo gli stessi interessi. L'arte. Il calcio. Il jazz. La discoteca. I vini pregiati. La birra ghiacciata. Tutti abbiamo una doppia anima, come Alfa 147 Black Line. Esclusiva carrozzeria bicolore con tetto nero per esaltare la sua anima elegante. Cerchi in lega da 17 a setto ribassato per dare più grinta alla sua anima sportiva. Scoprila sabato e domenica. E su tutta la gamma 147 fino al 31 marzo, 5 anni a tasso zero e supervalutazione dell'usato. Tag 051. M2O Cube. Sei pronto?

Cosa stiamo ascoltando, fratello? Don't Cry Tonight. Artista? Gigi D'Agostino. Versione? Gigi e Luca Tanz. Allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Questo è forte, forte, forte, forte, forte. È bello questo qua. Sì, sì. Cos'è? Hold on. Love Transistor. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Mentale. Ginnastica mentale. ti fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. C'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino. C'è Gigi, c'è Gigi, c'è Gigi D'Agostino, c'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino. C'è Gigi D'Agostino, domani è un bel mattino. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma. E se lo fa, se quel che fa, chi lo sa, quando è che sbaglia, quando usci dona o quando usci togli. Chi lo sa, quando è che sbagli, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, sta per capire o se non sbaglio. Ma nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa, se lasci un taglio, non sei frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie. Solo un abbaglio, non c'è canzone senza uno sbaglio. Ah, tornando alla premiazione quello del CD. Muovete. Abbiamo ricevuto messaggi da ogni angolo del globo. Brasile, Messico, Inghilterra, Danimarca, Russia, Francia, Polonia, Spagna, Austria, Olanda e ce ne tanti, Germania, anche da Mirafiori, che è una zona di Torino. E io lì pascolavo da piccolo. Sì, dai, dai, dai. E insomma ci hanno scritto da ogni parte del mondo. Alcuni sono italiani che sono via per lavoro. E alcuni invece non sono italiani e ci hanno scritto. E infatti, secondo me, dai messaggi che abbiamo ricevuto, non hanno ben capito per quale motivo io abbia dato quel numero, però ci hanno scritto e quindi comunque ci hanno fatto sentire il loro calore. Grazie a tutti. Il cammino è ascoltato in tutto il mondo, siamo mondiali. Grazie a tutti voi. Fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale

creare. Voglio creare. Voglio creare. Senza temere di dover disfare ciò che ho appena fatto. Biondissima. Allora, se ti dico life is now. Life is quando vado in vacanza con i miei amici. Perfetto. E sai che da oggi puoi parlare e messaggiare gratis con tutti i tuoi amici Vodafone? No. Beh, adesso lo sai. Sì. Oh, me lo spieghi? Ma... Con Vodafone Infinity, dopo il primo minuto e il primo SMS, parli e messaggi gratis con tutti i tuoi amici Vodafone. Scegli Vodafone Infinity entro il 30 marzo e potrai attivare gratis Super Infinity SMS per due mesi. Fino a 1000 minuti al mese e 50 SMS al giorno. Per info e costi www.190.it. Life is now. Vodafone. Stato puro è di nuovo su CD, 15 tracce mixate, traccia CD-ROM con l'archivio delle sigle e le schede dei DJ di M2O. In più il nuovo cortometraggio musicale M2O Eleven. Put your hands up. Mixer and selector number one by Provenzano DJ. The dance movement number one. La compilation di M2O è nei negozi di dischi e nelle edicole con il nuovo numero di Pianeta M2O a 9,90€. Wave Challenge 2006, 12 tappe, le selezioni sono iniziate. Best DJ, Best VJ, Electro Wave Challenge 2006. Dimostra di essere il migliore e vai sul palco di Arezzo Wave Love Festival. Electro Wave Challenge 2006.

smile, but I remember your first lie. It's time to stop this useless relation. There's no reason to go on. I hate to waste my precious time. There is no way to change my mind. You let me down with careless emotions. Your behavior has to stop. Attenti, andiamo lenti. Questo è forte, forte, forte, forte, forte. Bello questo qua. Cos'è? Raga Punk, la tana del suono. Di appuntamenti in discoteca. Questo sabato, quindi sabato 18 marzo 2006, domani sera, alle ore 22, perché io comincio a suonare molto presto. Discoteca Roncaccio, via Milano 19, Bizzarrone. Se non vieni sei un coglione. Da Milano prendere per la Como Chiasso, uscire allo Mazzo. E non fare quella faccia da cosa? Ma no, questa era per me, questo è l'itinerario per me, non c'entra niente. E niente, allora ci vediamo lì. Titolo? Cielo. Artista? Federico Romanzi. Ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno.